Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Entro ed esco da una cella, si fuo, per me è normale. Due stati non vedo il mare, le ho passate in tribunale. In cella 40 gradi, porca puttana. Tot chili e abracadabra, venduti in settimana. Conoscono mamma e papà in ogni carcere. L'ho messo in senza sporcare l'immagine. Quando ti scavallavo già mettevo il cardigan. Non c'entri con rap ma sei sulle pagine. Taglio le voci con un produttore. Non taglio più case, sono al fornitore. Sta lanciando sassi sopra quel drone. Simba, non è che vuoi farmi un favore? Ti faccio un favore ma anche due. Dentro dal camino come Papa Noel. Sto sulle mie, tu stai sulle tue. Morivo bishuara, mangio per due. Sto con Simba la rue, mamma serve una dua. Le cuoia di due anni servono due. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Se non porto i soldi a casa, non torno a casa. Esco da casa che pensa i soldi e basta. Esco con zero torno che mi scoppia la tasca. Dall'invidia ho, mi sta scoppiando la testa. Questa pasta è buona e fatta in casa. Fumo usata, no colombiana. Mai portato già altre cose a casa. Sembrava Baghdad, era la mia casa. Ho preso tre rivo, ho mal di pancia. E non capisco perché mi guarda. Faccio casino e finisce. Ho pizza a domicilio ed entravo in casa. Se qualcuno ci tofona non sono a casa. Sogno alla Bellucci in giro per casa. Razzista di merda dice torno a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa. Era con i quarantenni a far la bamba. Tossicomane mi chiede i grammi. Fammi un favore levati dal caso. Ho preso qualche cazzo in cambio di qualche grammo. Se non porto soldi a casa non torno a casa. Se non porto soldi a casa non torno a casa. Se non porto soldi a casa non torno a casa. Se non porto soldi a casa non torno a casa. Se non porto soldi a casa non torno a casa. Esco da casa che pensa i soldi e basta. Esco con zero torno che mi scoppia la tasca. Dall'invidia ho, sta scoppiando la testa.